Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Il baratro si restrinse, poi si allargò in una specie di piattaforma. Questa, più o meno, era la loro meta. Una cisterna in rovina conteneva ancora un po' d'acqua che sarebbe servita per le bestie, e subito al di sopra di quella fanghiglia si apriva un buco nero, la prima grotta. Tre montagne circondavano la piattaforma. Due sbuffavano a lacrimente calore, ma la terza era in ombra, e qui la comitiva si accampò. Che posto orribile e soffocante, mormorò tra sé Mrs. Moore. Come sono svelti i vostri servi, esclamò Miss Quested. Poiché avevano già steso una tovaglia con un vaso di fiori finti nel mezzo e il maggiordomo di Mahmud Ali portava loro per la seconda volta uova in camicia e tè. «Ho pensato che facciamo questo spuntino prima delle grotte e la colazione dopo», disse Aziz. «Come? Non è questa la colazione?» «La colazione!» «Vi pare che vi tratterei in modo così stravagante?» L'avevano avvertito che gli inglesi non smettono mai di mangiare e che avrebbe fatto bene a nutrirli ogni due ore finché non fosse pronto un solido pasto. Com'è tutto bene organizzato. Questo dovrete dirmelo quando sarò tornato a Chandrapur. Di qualunque guaio sia responsabile, voi rimanete miei ospiti. Adesso Aziz parlava gravemente. Per qualche ora esse erano nelle sue mani e lui si sentiva riconoscente che si fossero messe in quella situazione. Fino a quel momento tutto andava bene. L'elefante teneva in bocca un ramoscello tagliato di fresco e lo sguattero sbucciava patate. Hassan gridava e Mohammed Latif stava lì come di dovere, tenendo nelle mani un virgulto scortecciato. La gita era un colpo riuscito, ed era indiano. A un oscuro giovanotto era stato consentito di colmare di cortesie dei forestieri, che è il sogno di tutti gli indiani, anche dei cinici come Mahmud Ali, ma non ne hanno mai l'occasione. L'ospitalità era un fatto compiuto, le due donne erano sue invitate, il loro benessere impegnava il suo onore. E se avessero patito un solo disagio, gli si sarebbe schiantata l'anima. Come la maggior parte degli orientali, Aziz sopravvalutava l'ospitalità scambiandola per intimità, senza accorgersi che il senso di possesso la sciupa. Soltanto vicino a Mrs. Moore e a Fielding vedeva più lontano e capiva quale maggior benedizione fosse il ricevere che il dare. Quei due suscitavano in lui rare e belle impressioni, erano suoi amici, suoi per sempre, e così lui per loro. Li amava a tal punto che dare e ricevere diventavano una cosa sola. Li amava ancora più che gli Hamidullah, perché per incontrarli aveva dovuto superare molte difficoltà, e questo incita uno spirito generoso. E fino al giorno della sua morte, egli serbò le loro immagini in qualche piega della sua anima, acquisto perenne. Ora guardò Mrs. Moore, che seduta su una sedia a sdraio sorseggiava il tè, e per un attimo provò un'esultanza che già conteneva il germe del proprio declino, perché lo spingeva a pensare: «Che altro posso fare per lei?» E via, da capo nel giro vizioso dell'ospitalità. Le capocchie nere dei suoi occhi si colmarono di una luminosa e tenera espressione, ed egli disse: «Vi ricordate sempre della nostra moschea, Mrs. Moore?» «Me ne ricordo, me ne ricordo», disse lei, improvvisamente giovane e vitale. Io così sgarbato e violento e voi così buona. E tutti e due così felici, disse lei. Le amicizie che cominciano così durano più a lungo, credo. Potrò mai ospitare gli altri vostri figli? Sapete degli altri? A me Mrs. Moore non ne parla mai, disse Miss Quested, rompendo senza volerlo un incantesimo. Ralph e Stella, sì, so tutto di loro. Ah, ma non dobbiamo dimenticare la visita alle nostre grotte, eh? Ad avervi qui come ospiti si è avverato uno dei sogni della mia vita. Non potete immaginare che onore mi avete fatto. Ah, mi sento come l'imperatore Babur. Perché? Come Babur? Domandò Miss Quested alzandosi. Perché i miei antenati sono scesi con lui dall'Afghanistan. Lo raggiunsero a Herat. Spesso anche lui non aveva che un solo elefante e qualche volta nemmeno quello, ma non trascurava mai di mostrarsi ospitale. Che combattesse, andasse a caccia o scappasse, si fermava sempre qualche tempo tra le montagne, proprio come noi. Non rinunciava mai all'ospitalità e al piacere, e anche se c'era poco cibo, voleva che fosse presentato con eleganza, e se c'era un solo strumento musicale, lo faceva suonare una bella melodia. In lui io vedo il mio ideale. È il gentiluomo povero, e divenne un grande re. Ma credevo che il vostro imperatore preferito fosse un altro, disse Miss Quested. Non ricordo il suo nome. Ne avete parlato in casa di Mr. Fielding? Quello che il mio libro chiama Aurangzeb. Alamgir? Oh, sì, certo, era il più pio, ma Babur, in tutta la sua vita non ha mai tradito un amico. E per questo oggi non riesco a pensare che a lui. E sapete com'è morto? Ha dato la vita per suo figlio. Molto più difficile che morire in battaglia. Erano stati sorpresi dal caldo. Dovevano tornare a Kabul per la brutta stagione, ma non poterono per ragioni di Stato. E ad Agra, Humayun cadde ammalato. Babur girò 3 volte intorno al letto e disse: «Gliel'ho portata via». E gliela portò via davvero. La febbre lasciò il figlio e andò da lui, e lui morì. Ecco perché preferisco Babur ad Alamgir. Non dovrei, ma è così. Però non devo farvi perdere tempo. Vedo che siete pronta ad andare. Niente affatto, disse lei, tornando a sedersi vicino a Mrs. Moore. Ci piace tanto stare a parlare così, perché finalmente Aziz sarà messo a parlare di quello che sapeva e sentiva, a parlare come quel giorno nel padiglione di Fielding. Era tornato la guida orientale che loro apprezzavano. Ah, sono sempre felice di parlare dei Mogul. È il piacere più grande che io conosca. Vedete, quei primi 6 imperatori erano tutti uomini straordinari, e non appena ne sento nominare uno qualunque, dimentico tutto al mondo all'infuori degli altri 5. 6 re come quelli non potete trovarli in nessun paese della terra. Non così in successione, dico, padre e figlio. Diteci qualcosa di Akbar. Ah, avete sentito il nome di Akbar? Bene. Hamidullah, che dovete conoscere, vi dirà che è il più grande di tutti. Io dico, sì, Akbar è straordinario, ma è mezzo indù, non era un vero musulmano. E subito Hamidullah grida, Babur non era meglio, beveva vino. Ma Babur dopo se ne pentiva sempre, ecco la differenza. Mentre Akbar non si pentì mai della nuova religione che aveva inventata al posto del Santo Corano. Ma la nuova religione di Akbar non era molto bella? Doveva abbracciare tutta l'India. Miss Quested, bella, ma sciocca. Voi tenetevi la vostra religione, io la mia. È il meglio di tutto. Niente abbraccia tutta l'India, niente, niente. Questo fu l'errore di Akbar. Oh, ne siete sicuro, dottor Aziz? Disse lei pensierosa. Spero che abbiate torto. Deve pure esserci qualcosa di universale in questo paese. Non dico la religione, perché non sono religiosa, ma qualcos'altro. E se no, come si possono abbattere le barriere? In fondo, non faceva che predicare quella fratellanza universale che anche lui qualche volta sognava, ma che messa così in prosa divenne subito falsa. «Prendete il mio caso», continuò lei, perché era proprio il suo caso ad animarla. «Non so se l'avete sentito dire, ma sto per sposare Mr. Hislop. E io vi faccio le mie più vive congratulazioni. Mrs. Moore, posso spiegare al dottor Aziz il nostro problema, quello anglo-indiano, voglio dire?» «Il problema è tuo, cara, non mio.» «Sì, sì, questo è vero. Beh, sposando Mr. Hislop diventerò anch'io quella che si chiama un'anglo-indiana.» Aziz alzò la mano in segno di protesta. «Impossibile! Ritirate una dichiarazione così atroce!» «Ma lo diventerò! Per forza! È un'etichetta a cui non posso sfuggire! Quello che spero di evitare è la mentalità. Donne come...» E si interruppe perché le pareva brutto fare nomi, ma 15 giorni prima avrebbe impetuosamente detto Mrs. Tarton e Mrs. Callendar. Certe donne sono così, meschine e snob con gli indiani, che se dovessi diventare come loro mi sentirei morire dalla vergogna, ma il mio problema è questo. In me non c'è niente di speciale, niente di particolarmente buono o forte che mi aiuti a resistere al mio ambiente e mi eviti di diventare come loro. Sono piena di difetti terribili. Ecco perché ho bisogno della religione universale di Akbar o di un suo equivalente per restare moderata e ragionevole. Capite quello che voglio dire? Quei discorsi piacquero ad Aziz, ma nel sentirla accennare al matrimonio, la sua anima si chiuse ermeticamente. Non aveva nessuna voglia di farsi trascinare in quel genere di cose. «Con un parente di Mrs. Moore sarete certamente felice», disse con un inchino cerimonioso. «Oh, la mia felicità! Questa è tutta un'altra faccenda. Io voglio consultarvi su questo problema degli anglo-indiani. Potete darmi un consiglio?» «Voi siete assolutamente diversa dagli altri, ve l'assicuro», le disse il dottor Aziz. «Non sarete mai villana col mio popolo. Mi hanno detto che diventiamo tutti villani dopo un anno.» «Allora vi hanno mentito», proruppe Aziz, perché quella era la verità e lo toccava sul vivo. Era anzi un insulto in quelle speciali circostanze. Subito tornò in sé e rise, ma l'errore di Adela aveva spezzato la loro conversazione, la loro civiltà, per così dire, che si disperse come i petali di un fiore abbandonato e li lasciò lì, tra le montagne. «Andiamo», disse lui tendendo una mano a ciascuna delle due donne. Quelle si alzarono un po' riluttanti e si diressero al loro giro turistico. Ooh. abbastanza accessibile. Rasentarono la pozza d'acqua e poi si arrampicarono su sgradevoli sassi, col sole che li martellava sulla schiena. Chinando il capo, sparirono a uno nelle viscere delle montagne. Il piccolo buco nero sbadigliò, dove per un attimo erano apparse le loro varie forme e colori. Li aveva inghiottiti come uno scarico inghiotte l'acqua. Lisci e nudi si innalzavano i precipizi. Liscio e vischioso il cielo che univa i precipizi. Massiccio e bianco, un nibbio braminico svolazzò tra le rupi con una goffaggine che pareva voluta. Prima che l'uomo fosse nato con la sua smania di dignità, il pianeta doveva essere così. Il nibbio svolazzò via. Prima che gli uccelli, forse? E poi il buco eruttò e l'umanità ricomparve. Era stata una cosa orrenda dal punto di vista di Mrs. Moore, che là dentro si era sentita quasi venir meno e non appena tornata all'aperto dovette fare uno sforzo per non dirlo. Era più che naturale, andava soggetta ai mancamenti e nella grotta c'era troppa ressa perché tutto il seguito era entrato con loro. Affollata di contadini e di servi, la sala circolare si era riempita di lezzo. Nel buio Mrs. Moore aveva perduto Aziz e Adela, non sapeva chi la toccasse, non riusciva a respirare e qualcosa di schifoso e di nudo l'aveva colpita sulla faccia, fermandosi poi come un tampone sulla sua bocca. Aveva cercato di tornare nella galleria di entrata, ma un nuovo afflusso di contadini l'aveva risospinta indietro. Aveva battuto il capo. Per un attimo si sentì impazzire, dibattendosi e smaniando come un'ossessa, perché non erano soltanto la folla e il puzzo a spaventarla, c'era anche un eco, terrificante. Il professor Godbole non aveva parlato di echi, forse non ne era rimasto mai impressionato. Ci sono echi raffinatissimi in India, c'è il sussurro intorno alla cupola di Bijapur. Ci sono le lunghe, compatte frasi che a Mandu viaggiano attraverso l'aria e tornano indenni a chi le ha suscitate, ma l'eco in una grotta Marabar non è così, è del tutto indistinta. A qualunque cosa si dica risponde lo stesso rumore monotono e vibra su e giù per le pareti finché il soffitto non lo assorbe. È il suono, fin dove l'alfabeto umano può renderlo, o boom, oppure boom, completamente ottuso. Speranza, gentilezza, soffiarsi il naso, lo scricchiolio di una scarpa, tutto fa boom. Perfino lo sfregamento di un fiammifero fa contorcere un vermiciattolo, troppo piccolo per avvolgersi ad anello, ma eternamente allerta. E se molte persone parlano insieme, comincia un boato di suoni incalzanti, da eco nasce eco, e la grotta è tutta piena di un serpente composto di tanti serpentelli che si torcono, ognuno per suo conto. Dietro Mrs. Moore sgorgarono fuori tutti gli altri. Lei aveva dato il segnale del riflusso. Aziz emerse sorridendo con Adela e anche Mrs. Moore sorrise, non volendo dargli l'impressione che il suo trattenimento fosse un fiasco. In ogni persona che emergeva, essa andava cercando un malfattore, ma non ce n'erano. E lei si rese conto d'essere stata tra gente mitissima, desiderosa soltanto di farle onore. E che quel tampone nudo era un povero bambinetto a cavalcioni sui fianchi della madre. Nella grotta non c'era stato niente di cattivo, ma lei non si era divertita. No, non si era divertita affatto e decise di non visitarne altre. Avete visto il riflesso del suo fiammifero? Carino, vero? Domandò Adela. No, io non ricordo. Ma lui dice che non è una bella grotta. Le migliori sono sul cavo Adol. No, non credo che ci verrò. Io non mi piace arrampicarmi. Benissimo. Torniamo a sederci all'ombra finché ci portano la colazione. Ah, ma lui ne sarebbe così contrariato. Continuò Mrs. Moore. Si è preso tanto disturbo. Tu dovresti andarci. Non ti dispiace, no, se io resto qui? Sì, forse è vero, disse la ragazza, indifferente a quello che faceva, ma desiderosa di mostrarsi gentile. I servi e tutti gli altri si scapicollavano verso il campo, pungolati dai gravi rimproveri di Mohammed Latif. Aziz andò a dare una mano alle sue ospiti su quella sassaia. Era nel pieno delle sue energie, vigoroso e umile, troppo sicuro di sé per offendersi delle critiche. E quando seppe che loro stavano cambiando programma, se ne rallegrò sinceramente. «Ma certo! Miss Quested, lasciamo qui Mrs. Moore e andiamo noi due. Non staremo via molto, ma non ci metteremo premura perché sappiamo che il suo desiderio è questo». «Ah, sì, giustissimo. Mi dispiace di non venire anch'io, ma non sono una grande camminatrice». «Oh, cara Mrs. Moore, non c'è niente che possa importare finché siete mie ospiti». Anzi, sono felice che voi non veniate. Questo può anche parere strano, ma voi mi state trattando con vera franchezza, da amico. Sì, sono vostra amica, gli rispose lei, posandogli la mano sulla manica e pensando, nonostante la stanchezza, com'era attraente Aziz, com'era buono e come vivamente lei desiderasse la sua felicità. Perciò, «posso darvi un altro consiglio?» disse la donna. «Non fate venire tanta gente questa volta. Vedrete che sarà meglio». «Ma naturalmente!» esclamò lui. E passando all'estremo opposto vietò a tutti, fuorché a una guida, di accompagnare Miss Quested e lui al cavo Adol. «Va bene così?» le domandò. «Benissimo. E ora divertitevi. Al ritorno, poi, mi racconterete tutto». E si lasciò cadere sulla sedia a sdraio. Si andavano sino al grande assembramento di grotte. Sarebbero stati via quasi un'ora. Essa tirò fuori il suo blocco di carta da lettere e cominciò: «Cara Stella, caro Ralph». Poi si interruppe e guardò la strana valle e la loro piccola invasione. Persino l'elefante non era più nessuno. Alzò lo sguardo dalla bestia all'entrata della galleria. No, non aveva nessuna voglia di rifare quell'esperienza. Più ci pensava, più le riusciva sgradevole e paurosa. Le ripugnava molto di più adesso che sul momento. La folla e il lezzo poteva dimenticarli, ma l'eco stava cominciando a minare la sua presa sulla vita in chissà quale indescrivibile modo. Sorprendendola in un momento di stanchezza, era riuscita a mormorare: «Il patetico, la pietà, il coraggio, sì, esistono, ma sono identici, tale e quale come il sudiciume. Tutto esiste, niente ha valore. Se in quel luogo uno avesse proferito un'infamia o citato versi sublimi, il commento sarebbe stato lo stesso». Se uno avesse parlato con la lingua degli angeli, ho chiesto grazia per tutta l'infelicità e l'incomprensione del mondo, passata, presente e futura, per tutti i patimenti che gli uomini debbono subire, quale che sia la loro opinione o condizione, e comunque si ingegnino di evitarli o dissimularli, il risultato sarebbe stato lo stesso. Il serpente sarebbe disceso per poi tornare al soffitto. I diavoli appartengono al nord e su di loro si possono scrivere poesie, ma nessuno avrebbe potuto rendere romantico il Marabar, perché spogliava l'infinito e l'eterno della loro immensità, l'unico attributo capace di adattarli al genere umano. Mrs. Moore cercò di continuare la sua lettera, dicendosi che era soltanto una donna anziana che si era alzata troppo presto al mattino e aveva fatto un viaggio troppo lungo, che la disperazione da cui si sentiva prendere altro non era che la sua disperazione, la sua personale debolezza, e che il mondo sarebbe andato avanti lo stesso anche se lei fosse impazzita per un colpo di sole. Ad improvviso, sulla soglia della sua mente apparve la religione, il povero piccolo cristianesimo ciarliero, e lei seppe che tutte le sue divine parole, da «sia fatta la luce» a «è finito», si riducevano a «buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu su un'estensione più vasta del consueto. L'universo, sempre incomprensibile al suo intelletto, non offriva riposo alla sua anima. L'inquietudine di quegli ultimi 2 mesi prese infine una forma precisa, e lei si rese conto che non poteva scrivere ai suoi figli. Non voleva comunicare con nessuno, nemmeno con Dio. Sedeva, paralizzata dall'orrore, e quando vide avvicinarsi il vecchio Mohammed Latif, temette che si accorgesse del suo cambiamento. Per un poco tentò di rassicurarsi, pensando: «Sto per ammalarmi». Poi si arrese alla visione. Perse interesse a tutto, anche ad Aziz. E le parole così affettuose e sincere che gli aveva rivolte non le parvero più sue, ma dell'aria. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.